Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Lucifer is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say. I cannot do this, Snowflake! Ciao a tutti e a tutti, buonasera. Bentornate e bentornati ad una nuova puntata della Mucca Libera, la trasmissione antispecista di radioasilo.it. Anche questa settimana abbiamo una serie di notizie e contributi dal mondo antispecista, dal mondo animale, dalle lotte e dell'antispecismo. Anche questa settimana abbiamo un contributo molto interessante da parte delle compagne che sono in sciopero della fame per la liberazione degli orsi e delle orse reclusi e recluse nel Casteller. Abbiamo anche una serie di notizie dal mondo animale, come dicevo, per cui iniziamo subito. Torniamo ad occuparci di un tema di cui abbiamo già parlato in precedenza e anche la settimana scorsa, nell'ultima puntata, riguardo il progetto Light Up, quello di tortura sui macachi. È una notizia che è buona perché il Consiglio di Stato ha sospeso l'esperimento sui macachi. Infatti il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR del maggio scorso e ha dato ragione di nuovo alla Lega Antivivisezione, che aveva fatto il ricorso ordinando una seconda sospensione di questo famigerato esperimento sui macachi, che è dell'Università di Torino ed è in corso presso l'Università di Parma, il progetto Light Up appunto. La Lega Antivivisezione commenta sul proprio sito scrivendo che l'organo della giustizia amministrativa ha disposto che gli esperimenti vengano immediatamente interrotti, richiedendo però un dovuto approfondimento scientifico, analitico e motivato da parte di un ente terzo che dovrà poi confrontarsi con le parti. Invece il Consiglio di Stato sul proprio sito conferma la sospensione della sperimentazione sui macachi, quindi cosa Buona, positiva, comunica però l'affidamento di un'approfondita verificazione a due illustri scienziati. Quello che è importante sottolineare è che c'è un'udienza di merito su tutta la questione che è stata fissata in previsione per il 28 gennaio 2021, quindi all'inizio dell'anno prossimo. Ricordiamo che l'ordinanza del Consiglio di Stato è arrivata appunto a seguito dell'appello della Lega Antivivisezione contro la sentenza del TAR e quindi contro il Ministero della Salute e dei due atenei di Parma e Torino, e prevede anche entro 70 giorni una verifica sullo stesso progetto, questa ordinanza. A occuparsene sarà la Fondazione Bietti per lo studio e ricerca in oftalmologia. Dovrà rispondere alle domande che il Consiglio di Stato ha posto se il progetto di ricerca in questione è perseguibile soltanto mediante sperimentazione sui macachi, appunto sulla specie primati umani vivi, se il numero di 6 primati è il minimo indispensabile, se sono stati considerati tutti e tre gli elementi posti dalla legislazione comunitaria e da quella nazionale, quali condizioni pongono per la sperimentazione. La verifica, si legge sempre nell'ordinanza del Consiglio di Stato, dovrà valutare quale delle due parti, entrambe portatrici di interessi di straordinario valore, dice con una terminologia alquanto sinistra, perché il valore della tortura sugli animali. Va bene, questo è il mio commento. Comunque, dice il Consiglio di Stato, dovrà valutare quale delle due parti riceverebbe il danno più grave e irreparabile dall'esecuzione della sentenza appellata. Vabbè, questo sembra in termini di scientismo specista. Vabbè, il collegio ricorda poi la propria ordinanza precedente che affermava che spetta a chi sperimenta e con la certificazione degli organi indipendenti prescritti dalla legge dimostrare che non esistono alternative alla sperimentazione su animali vivi. Quindi, insomma, la situazione rimane aperta. Il mondo della tortura della vivisezione protesta perché il progetto è stato sospeso. La LAB invece, insomma, porta a casa una vittoria parziale rispetto a questo ricorso, questa procedura legislativa. Però dall'altro lato c'è anche una mobilitazione popolare che è importante, ed è importante continuare a richiedere la liberazione di questi 6 macachi che vogliamo vedere liberi e non vogliamo vedere torturati dalle università di Torino e Parma, dallo Stato italiano. Quindi registriamo questa vittoria parziale e vogliamo sempre rivedere i macachi liberi, li aspettiamo fuori dalle stanze di tortura. Una notizia che ci arriva dal Trentino. Domenica prossima, 18 ottobre, ci sarà una manifestazione nazionale indetta in difesa degli orsi e delle orse recluse e reclusi al Casteller. Ci sarà questo corteo, l'appuntamento è per le ore 11 presso la stazione di Villazzano e poi ci sarà appunto in corteo, si andrà in corteo verso il Casteller con lo slogan Orsi liberi, smontiamo la gabbia. Questo corteo è stato indetto dall'Assemblea antispecista, dal Centro Sociale Bruno, da Fridays for Future Trento e dal Coordinamento Studenti Medi Rovereto e Trento. Gli organizzatori dicono che la manifestazione durerà tutta la giornata, quindi portatevi il pranzo al sacco, l'acqua, la mascherina, scarpe da montagna, indumenti adatti in caso di pioggia. Andiamo adesso in Russia, parliamo del disastro ambientale nella penisola della Kamchatka, dove sono stati trovati migliaia di animali marini morti. La causa del disastro non è ancora conosciuta. Negli scorsi giorni migliaia di animali marini morti, dalle foche, pesci, di vario tipo, granchi, sono stati trovati sulle spiagge della Kamchatka, che è la penisola sul mare di Bering nell'Oceano Pacifico, che è all'estremo oriente della Russia. Secondo le prime analisi, a causare la morte di tutti questi animali sarebbe stato l'inquinamento del mare, in cui sono stati trovati idrocarburi e fenolo, che è un derivato del benzene, ben oltre i limiti massimi consentiti. Greenpeace parla di un disastro ecologico e le cause dell'inquinamento al momento sono ignote, ma ci sono delle ipotesi che tutto possa aver avuto origine da una discarica. Questa massa di sostanze inquinanti si muove lungo la costa, non solo in superficie, ma anche in profondità. Greenpeace Russia sempre spiega che dopo le prime verifiche le autorità locali hanno detto che l'acqua conteneva una quantità di prodotti petroliferi ben 4 volte superiore ai limiti massimi consentiti e il fenolo in concentrazione 2,5 volte più alto rispetto ai limiti. Ci sono una serie di video diffusi sui social network in cui si vedono sulle spiagge decine di polpi, foche, come dicevo prima, e altri animali marini morti. Ci sono anche dei surfisti che frequentano queste località marine della Kamchatka e hanno avuto dei sintomi da intossicazione anche loro perché l'inquinamento è stato diffuso, si è diffuso su tutta la costa, su tutte le spiagge. E durante le immersioni, alcuni scienziati incaricati delle indagini hanno scoperto che c'è anche una moria di organismi che vivono sul fondo del mare. E solo alcuni grandi pesci, gamberetti e granchi sono sopravvissuti a questa strage, ma sono pochi, pochi, pochi di loro perché appunto il 95% di tutta la popolazione marina, animale, purtroppo è morto. Gli scienziati hanno inoltre detto che l'aria contaminata sarebbe molto più grande di quella che hanno esaminato e stanno valutando se appunto ci sia stata questa fuoriuscita da una vicina discarica, ma non ci sono ancora prove certe dell'origine di questo disastro che ha colpito migliaia e migliaia di animali, purtroppo. E prosegue quindi l'indagine sulle cause dell'inquinamento, che è stato veramente distruttivo in tutta la zona. Thank you. Come annunciato già all'inizio della nostra trasmissione, abbiamo il piacere di avere di nuovo con noi, ai nostri microfoni, Stefania, l'attivista antispecista che è in sciopero della fame dal 21 settembre e che ha partecipato alla nostra trasmissione la settimana scorsa, ben spiegandoci qual era la situazione attuale della prigione del Castellar e degli orsi e dell'orsa che vi sono imprigionati all'interno. Ma abbiamo oggi il piacere di ospitare anche Barbara, l'altra attivista che insieme a Stefania fin dal primo giorno sono in lotta per lo sciopero della fame. Quindi innanzitutto le ringraziamo entrambe perché è un vero piacere e onore per noi averle in trasmissione e ci sono diverse domande che come a Mucca Libera ci sentiamo di porre a loro, ma innanzitutto vorremmo approfondire un po' la questione dello sciopero della fame a cui abbiamo accennato la settimana scorsa e anche per rendere, diciamo, ci sembra doveroso per dare lo spazio adeguato a una forma di lotta così, così importante che stanno portando avanti queste due donne. E quindi ci vorremmo sapere da loro innanzitutto come mai hanno scelto proprio la forma dello sciopero della fame come, come attività di protesta rispetto alla situazione che vivono gli orsi in Trentino e anche qual è stata la reazione un po' generale, in senso generale, quindi dei media o come l'hanno percepita loro la reazione dell'opinione pubblica di fronte a questa forma di protesta così forte che è uno sciopero della fame, che ricordiamo, va avanti dal 21 settembre e quindi ormai da diverso tempo e che sicuramente grava sul vostro fisico, sulla vostra condizione e che con tanto coraggio portate avanti. Ciao Silvia, ciao da parte di Stefania e, Ciao da parte di Barbara. ecco, e un ciao anche oltre a Silvia, anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando. E innanzitutto grazie per averci permesso il ritorno nella vostra emittente. E sempre appunto riparlando comunque della questione precedente che avevamo trattato, quindi la questione del nostro sciopero della fame finalizzato alla fine dello sterminio degli orsi in Trentino e alla liberazione di quelli tuttora prigionieri. Adesso oggi noi siamo qui assieme perché ribadiamo che questo sciopero della fame, quindi saremo in due a dare le risposte. La cosa mi fa così, sono contenta di questo fatto di essere qui insieme alla mia compagna di lotta, perché non dimentichiamo che questa forma di protesta l'abbiamo intrapresa insieme ormai nel lontano 21 settembre. E abbiamo deciso, anche alla luce di tutti i fatti oscuri che nel frattempo sono accaduti, sempre a danno di questi meravigliosi animali, di continuare ad oltranza. Ovviamente lo sciopero della fame lo dovremmo strutturare in una maniera più, diciamo, più incisiva e ci stiamo appunto lavorando. Però quello che è importante da sottolineare è che abbiamo tutte e due deciso di continuare. Quindi cogliamo l'occasione per cominciare appunto a rispondere alle domande che ci hai posto. La prima: come mai hai scelto lo sciopero della fame tra le varie forme di protesta? Ecco, ma sostanzialmente per una cosa molto semplice, lo sciopero della fame sin dall'antichità, è sempre stato utilizzato come forma di protesta politica contro, il potere. Contro già il potere di per sé e contro anche l'abuso del potere. Per esempio, già nell'Irlanda pre-cristiana si usava appunto lo sciopero della fame come arma proprio come arma di combattimento. Poi Gandhi, non dimentichiamo Gandhi, il padre degli scioperi della fame, le suffragette inglesi. Tutto il mondo femminista dovrebbe conoscere le storie, anche dolorosissime, alle quali sono state sottoposte, che hanno vissuto le suffragette inglesi, che spessissimo hanno fatto ricorso allo sciopero della fame come arma politica. La lotta dell'IRA in Irlanda contro il governo inglese, i prigionieri politici in Turchia, che sono tuttora detenuti nelle carceri e tuttora ricorrono allo sciopero della fame. Il movimento cittadino in Kabilia, in Italia abbiamo avuto l'esponente storico dello sciopero della fame, Marco Pannella. Poi Akbar Ghanji in Iran. Una cosa però vorremmo far notare, abbiamo parlato di esponenti, di persone importantissime, di movimenti importantissimi che hanno utilizzato lo sciopero della fame solo e esclusivamente per rivendicare i diritti umani. Cosa nobilissima questo, indubbiamente, però questo sciopero della fame è comunque ancora circoscritto in ambito specista. Nel mondo invece della rivendicazione dei diritti degli animali, quindi in solidarietà con la lotta degli animali, con la resistenza degli animali nei confronti della dittatura umana, qual è stata la figura storica che ha lottato utilizzando lo sciopero della fame in resistenza e in solidarietà con gli animali? È stato Barry Horn, che è morto proprio a causa dello sciopero della fame il 5 novembre 2001. È un'icona del mondo antispecista, del mondo di quelli che comunque hanno sempre scelto di mettere il proprio corpo tra la lama del carnefice e la vittima designata dal sistema. Barry Horn ha sostenuto quattro scioperi della fame per i diritti degli animali, accanto e per i diritti degli animali. Il più lungo di tutti è stato quello di 68 giorni. È morto praticamente cieco e con una gravissima insufficienza renale proprio per questi scioperi della fame che non gli hanno dato scampo. Quindi io penso che sia giusto ricordarlo come un emblema di questa lotta che in questo, diciamo, con queste modalità è purtroppo ancora molto molto poco sentita dal mondo animalista e dal mondo antispecista in genere. Adesso lascio la parola a Barbara che vi dirà il perché della sua scelta dello sciopero della fame. Io non posso che allinearmi con quello che ha detto finora Stefania e voglio solo aggiungere una piccola cosa molto breve, che in questo momento M49 è in sciopero della fame. Quindi lo ripeto, M49 è in sciopero della fame, per lui non è una scelta, è l'ultima lotta che riesce a fare a livello di resistenza per cercare di uscire da quella maledetta gabbia. Quindi noi ci uniamo a lui in questa lotta. E vogliamo continuare ad oltranza finché anche lui non finalmente non potrà riottenere la sua libertà, noi di mangiare e lui di vivere. Grazie, grazie innanzitutto per aver ricordato M49 e per aver ricordato giustamente che M49 è in un sostanziale sciopero della fame. E grazie anche ad entrambe per aver ricordato quanto sia importante, qualunque sia la pratica di lotta che viene scelta, non la personalizzazione della lotta, no? Non il renderlo emblema, legarlo ad un nome, ad un volto, ma quanto invece sia importante quello che state facendo voi, cioè rendere questa pratica di lotta che vi vede in solidarietà con gli orsi. La rende appunto il meccanismo a cui state cercando e riuscite perfettamente a sottrarvi, che è quello di personalizzazione, la rende davvero un momento di forte solidarietà in lotta con, e quindi non possiamo che ringraziarvi perché a parole ci rendete chiaro quello che in realtà state rendendo chiaro con le vostre pratiche e con i fatti. Volevamo anche chiedervi che novità ci sono state da lunedì scorso e anche come commentate la sentenza del TAR su GG4. Ecco, adesso passiamo alla seconda domanda, rispondo io per Barbara, perché tanto comunque abbiamo la stessa idea in merito. Allora, la seconda domanda è attinente a qual è stata la risposta e la reazione che abbiamo riscontrato da parte delle persone di fronte al nostro sciopero della fame. Allora, ma possiamo dire che l'opinione pubblica comunque ci sta seguendo con certo interesse, per opinione pubblica intendo ovviamente le persone che ci stanno seguendo sui social, perché è qui che noi ci siamo manifestate ed è qui che per il momento stiamo portando avanti il tutto. E poi ovviamente le autorità e chi di dovere sono interessate e sono al corrente della nostra presa di posizione, della nostra lotta, però ovviamente questo è stato un discorso che non si è dipanato sui social, però è stato un rapportarci noi con chiamiamoli i poteri forti. Ecco, mentre per quello che riguarda appunto i social possiamo sì essere contente, insomma, del supporto delle persone, anche perché comunque condividono, ci seguono, stanno cercando di far passare il nostro messaggio il più possibile e ci hanno supportato anche, ad esempio, con azioni proprio pratiche. Hanno denunciato, hanno fatto una campagna di denuncia, di protesta, appena è uscito il referto dell'ispezione dei CITES presso il Casteller, avevamo appunto richiesto di supportarci in questa forma di protesta e denuncia. Noi abbiamo proprio denunciato, proprio fatto atto formale di denuncia tramite l'assunzione di un avvocato. Ovviamente non era possibile farlo con centinaia di persone, e abbiamo optato per un'altra consegna, comunque sempre presso i carabinieri, di un format di denuncia protesta. Tanti hanno aderito e tanti lo hanno fatto. Quindi diciamo che tutto sommato abbiamo un buon riscontro. Certo, noi abbiamo optato per non soltanto per una forma di protesta che in Italia non era mai stata attuata, lo sciopero della fame per ad oltranza a favore degli animali. E non era mai stato attuato. Per di più, noi non siamo quelle persone che amano le scenografie e la teatralità in quello che facciamo. Cerchiamo comunque di rimanere dentro il rigore di una presa di posizione che metta non noi con le sceneggiate, con il farci vedere, con il metterci la faccia, con balli, ballettini e folklore che a volte così è a carico dell'animalismo italiano. Va rispettato tutto, noi non critichiamo nessuno, però non è la nostra forma di manifestarsi e di lottare con e per gli animali. Quindi non è nemmeno facile riuscire comunque a stare con delle persone che hanno scelto un certo rigore e un certo, diciamo, un certo pudore nel portare avanti la lotta in un contesto che invece spesso e volentieri è tutt'altro. Ecco perché diciamo che siamo abbastanza contenti del riscontro che abbiamo avuto, perché si spera che sia un riscontro non tanto di quantità, perché poi la quantità è fluttuante. Oggi c'è una cosa che interessa, domani ce n'è un'altra, e sali, scendi continuo. Piuttosto stiamo mirando alla qualità dell'attenzione, alla qualità del sostegno, e lì noi andremo a mirare. Allora, alla penultima, che novità ci sono state dall'intervento precedente di lunedì scorso? Allora, suddividiamo i due aspetti. Per quello che riguarda, diciamo, la novità che riguarda, cioè nostra, proprio della nostra lotta allo sciopero della fame, oltre al fatto dell'avere allargato magari la cerchia di chi ci sta seguendo e cercare anche dei contatti all'estero, ma quello fa parte appunto del lavorio incessante che c'è sotto sotto questa campagna, abbiamo ricevuto comunque la telefonata del comandante del raggruppamento CITES, questo raggruppamento dei carabinieri CITES sono coloro che hanno effettuato l'ispezione al Casteller. Lui è il generale Massimiliano Conti e ci ha telefonato. È stata una telefonata, diciamo, tra virgolette, di cortesia, che ha offerto però a noi lo spunto di ribadire due cose essenziali. Di fronte alla sua preoccupazione per il nostro stato di salute, noi abbiamo ribadito questo, che noi continueremo ad andare avanti ad oltranza, perché lo sciopero della fame è comunque un'arma politica e come tale noi la useremo al momento opportuno. Poi l'altra cosa invece che comunque è emersa durante la conversazione telefonica e che comunque abbiamo ribadito, perché è anche giusto dirle le cose, non tenerle nascoste, tutto quello che ha avuto a che fare con la persecuzione, soprattutto dell'ultimo periodo in Trentino, alla luce di un'analisi, di una disamina attenta di tutto quello che è accaduto e che ha portato alla cattura di questi poveri orsi e alle varie ordinanze di cattura, se non addirittura di abbattimento, bisogna capire il perché, che cos'è che le ha motivate. E certamente non è quello che vuole essere passato all'opinione pubblica. Ecco, perché basta dire questo, non è possibile far credere all'opinione pubblica che, ad esempio, JJ4 sia un'orsa pericolosa, perché un'opinione pubblica con un minimo, un briciolo di intelligenza capirebbe che questa non è la verità. Perché è un'orsa che per 14 anni nessuno si era mai accorto, per 14 anni è sempre stato in quei posti, ha sempre girato lì e quindi è un'orsa che comunque avrà visto, no? In 14 anni avrà visto degli umani, ok? Non ha mai fatto nulla. Improvvisamente a luglio di quest'anno, a giugno di quest'anno, attacca, guarda caso, due cacciatori. Se qualcuno, io non dico nulla, ma se qualcuno si va a cercare un po' tutta la storia di quest'orsa e che cosa è accaduto quest'anno sul Monte Pelère tra giugno e luglio, magari riesce a capire che uno più uno fa due e non fa tre. Con questo penso di essere stata abbastanza chiara, perché giustamente è meglio sempre lasciare agli altri la possibilità comunque di andare a cercarsi la verità, che è quello che ho detto anche al generale. Tutto quello che viene dato in pasto all'opinione pubblica in merito agli orsi poi non è detto che corrisponda a quello che realmente è. Anche perché, scusatemi, ma agli orsi non è data purtroppo facoltà di parola. Ecco, quello che è accaduto in questi giorni che stanno trascorrendo dall'ultimo lunedì è la vergognosa sentenza del TAR, che dopo avere dato vane speranze all'orsa JJ4 e ai suoi cuccioli e a tutto il mondo animalista, antispecista, all'opinione pubblica che si battono affinché non venga catturata, mettendo poi a morte certa i piccoli, praticamente hanno disatteso tutte queste speranze, pronunciandosi a favore, il terzo pronunciamento è stato a favore della captivazione, quindi della cattura, quindi della morte di questa povera orsa che per 14 anni non sapevano neanche che esistesse in Trentino. Improvvisamente è diventata pericolosa e il giudice che ha emesso la sentenza ha avvalorato l'ordinanza quindi di Fugatti. Ecco, quindi quest'orsa finirà al Casteller insieme agli altri tre disperati che già ci sono dentro. Quindi motivo in più per continuare la nostra disperata lotta. E motivi in più anche per chiedere, anche se noi siamo su nel profondo nord e voi siete nel profondo sud, chiediamo il vostro sostegno, il vostro aiuto nel poter portare avanti questa forma di protesta contro una politica ottusa, becera e lassista. Questo perché è lassista, è anche una politica lassista, perché lo Stato italiano dovrebbe intervenire, ha le facoltà per poterlo fare e non lo fa. E sapete perché non lo fa? Per un semplice motivo, perché parlando di Trentino si parla di un'economia fiorente, si parla di un traino per l'Italia proprio a livello finanziario, a livello economico. Tutto sulla pelle degli orsi. Adesso lascio la parola a Barbara che darà la risposta all'ultima domanda che riguarda proprio questo vergognoso pronunciamento da parte del TAR. Da parte mia un carissimo saluto a Silvia, un carissimo saluto a tutti voi che ci state seguendo e mi raccomando, cercateci e soprattutto sostenete la nostra lotta. Grazie mille e un abbraccio collettivo. Il mio commento riguardo la sentenza del TAR, e credo sia molto vicino anche al pensiero di Stefania, perché la lotta è comune, quindi siamo più o meno sulla stessa linea in tutto, è che è disgustoso. Io non trovo un'altra parola utile a descrivere veramente il disgusto che abbiamo provato. Perché pensare di separare una madre dai propri cuccioli è già di per sé vergognoso. Separarla da dei cuccioli che non saranno in grado di provvedere a loro stessi è un omicidio, perché lo è. E mi chiedo chi sia stato il magistrato che abbia fatto questa scelta, perché la domanda che mi viene spontanea pormi è se questa persona abbia una famiglia, se abbia dei figli, se si sia minimamente immedesimato, ed è evidente che non l'abbia fatto, nella situazione lacerante che vivranno di separazione, di prigionia da un lato, di abbandono e quindi anche di morte dall'altro, e definirlo disgustoso credo che sia il termine più leggero che si possa usare, ma obiettivamente siamo in un programma pubblico e non possiamo usare parole differenti. È assolutamente disgustoso, è assolutamente disgustoso. E la mia opinione personale, in questo tengo fuori Stefania, è che questa cattura fosse già comunque decisa, che il giudice altro non abbia fatto che avallare quello che era la richiesta di chi, lo potete immaginare benissimo anche voi, e mi ricorda e mi riporta alla mente una cosa altrettanto drammatica, perché poi la morte in realtà non è più drammatica a volte, anzi, ed è quella di Danisa. Alla fine uccidere una madre davanti ai suoi cuccioli o portare via una madre ai suoi cuccioli, credo che per molti aspetti non sia molto differente come atto di dolore, atto di terrore, atto. E questa cosa noi la stiamo accettando. Cioè noi umani, noi di razza umana, stiamo accettando che i nostri fratelli, e lo dico con un sentimento reale, i nostri fratelli animali sopportino questa cosa, ma questa cosa potrebbe capitare anche a ognuno di noi, perché alla fine il potere ha un valore superiore a tutto, ai sentimenti, alla natura, a tutto. Quindi poniamoci un attimo a livello empatico e immedesimiamoci in una madre alla quale vengono portati via i figli. È accaduto anche a persone, a donne. Quindi voglio dire, è una femmina, è una donna, chiamiamola donna, alla quale vengono portati via i figli, anzi lei viene portata via i figli e i figli saranno destinati alla morte. Quindi io rifletterei molto su questo aspetto. È già accaduto, per Danizza non c'è stata nessuna giustizia e sta riavvenendo la medesima cosa, in una modalità diversa, ma sta avvenendo esattamente la stessa cosa. Noi continueremo a combattere, ma assolutamente, il nostro sciopero d'oltranza è maledettamente faticoso per alcuni aspetti, ma lo è da punto di vista fisico in un modo, ma da quello sentimentale, da quello umano, perché ancora sa di cosa si parli quando si dice umanità, è straziante, perché noi ci siamo immedesimate nella cattura, nella prigionia, se capitasse a noi, e io vorrei che ognuno di noi facesse questo paragone, se capitasse a me, anche quando non riguardo un altro essere umano, se capitasse a me. Io con questo vi ringrazio. Stefania, vorrei che salutassi anche tu perché almeno sentono che siamo assieme. Certamente, ciao a Ok. tutti, ciao Silvia Grazie e Silvia di averci dato questa possibilità, grazie a tutti quelli che ascolteranno e grazie a quelli che si faranno questa domanda e se capitasse a me. grazie a quelli che eventualmente decideranno comunque di darci un sostegno nelle Siamo qua. Accettiamo modalità che loro ritengono opportune. volentieri il contributo. Grazie Certamente, mille. arrivederci, Ciao. ciao. Grazie, non si può che essere d'accordo con tutte le osservazioni che fate, anche rispetto alle orribili vicende già accadute, come quella nota che riguardano Madre Orsa e i suoi poveri cuccioli. E nel ringraziarvi vogliamo ricordare anche a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che possono contattare Stefania e Barbara direttamente sui loro profili social per sostenerle attivamente nella loro lotta di liberazione per gli orsi. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Parliamo di cinghiali perché purtroppo continuano a segnalarsi episodi di caccia e di cattura di cinghiali in varie città. C'è stato un episodio di cui si è parlato parecchio nei giorni scorsi. Mi riferisco alla cattura a Milano di un branco di cinghiali nel Naviglio. Due sono stati fermati. Sono stati trovati dalla zona della Darsena al centro di Milano, e mentre altri fortunatamente sono riusciti a sfuggire alla cattura. Un branco di sei cinghiali finiti nel Naviglio fuori città, riportano le cronache, ha seguito la corrente del canale e si è avventurato fino a Milano, arrivando in Darsena nel cuore della metropoli. Così hanno comunicato i vigili del fuoco milanesi. Già segnalati già poco prima di mezzanotte, a una decina di chilometri, nel comune agricolo di Gaggiano, ma giovedì mattina alcuni passanti li hanno notati in Darsena, dove sono usciti cominciando a girovagare. Ovviamente, insomma, girovagare viene visto come un termine che indica pericolosità, al loro inseguimento purtroppo si sono messi i vigili del fuoco che ne hanno catturati solo due, fortunatamente. La caccia è continuata, sono state allertate altre forze dell'ordine e i vigili del fuoco hanno dovuto narcotizzare purtroppo questi due cinghiali in attesa dei veterinari. A Firenze è successo un episodio simile. Nel complesso ospedaliero di Careggi a Firenze, infatti, sono stati catturati mercoledì scorso tre esemplari di cinghiale. Mercoledì mattina alle 7 la polizia provinciale ha controllato delle trappole installate sul territorio. Purtroppo hanno installato anche delle trappole per catturarli e hanno visto che ne hanno catturato uno con una trappola piazzata dentro l'ospedale di Careggi. Ben tre animali sono stati purtroppo catturati. Proseguono i giornali, i quotidiani dicono che ci sono state catture simili di una quindicina di esemplari nel periodo estivo e si prosegue lamentando non della cattura ma della presenza di questi animali in luoghi, in territori che dovrebbero essere anche loro, sono anche loro, sicuramente non sono solo per gli umani. Per questa settimana è tutto, non mi resta che salutarvi. Vi ricordo il canale Telegram La Mucca Libera, dove mettiamo i podcast e altre notizie durante la settimana, e l'indirizzo email che è lamuccalibera@autoproduzioni.net. Un saluto a tutte e a tutti. So far is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. My God is gonna own me. There's nothing left to say now. I cannot do this, snowflake.